in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eccoci al nostro appuntamento per la rassegna stampa dei giornali italiani, che oggi hanno titoli abbastanza simili, anche se non proprio identici. Tre gli argomenti sostanzialmente: le dimissioni di Mastrapasqua dall'INPS, il maltempo con tutti i nubifragi, la situazione più grave resta, sembrerebbe, quella di Roma, e poi naturalmente quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle con questo attacco, ennesimo attacco al Presidente della Camera Laura Boldrini. Cominciamo quindi al Corriere della Sera, che titola: INPS Mastrapasqua si arrende, le indagini, la laurea falsa lascia il Presidente, e poi c'è subito lapidario il commento di Letta: scelta saggia. Il commento che poi occupa tutta l'intera pagina 3, perché ci ricorda ancora una volta la figura di questo signor Mastrapasqua, dottor Mastrapasqua a multipoltrone, è di Sergio Rizzo: quel lungo silenzio sulle 25 poltrone. La Viennetta è di Giannelli, ci sono ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mastrapasqua seduti su 9 poltrone, e uno di questi indica una poltrona vuota e dice: voglio essere di esempio. Vi dicevo il maltempo, la fotonotizia è una fotografia scattata dall'alto da un elicottero della polizia in un piccolo luogo tra Ponsacco e Pontedera in provincia di Pisa, dove il fiume Era è straripato, e appunto c'è la camionetta dei vigili del fuoco che sostanzialmente nuota in questo fiume straripato, ma naturalmente c'è anche l'esondazione del Tevere e un'allerta meteo che per ora è stata prolungata fino a martedì. E c'è in questo caso una pagina interessantissima, che è la 11, richiamata in copertina, di Gian Antonio Stella, inquietante perché, come sa fare solo Stella credo, riepiloga tutte quelle emergenze che lui chiama le scelte rinviate nel paese che frana. Vi leggo la prima parte, poi, come vi dicevo, tutta la pagina 11 ci dà il quadro generale, che va come sempre oltre l'emergenza di questi giorni, perché questa emergenza verrà archiviata e aspetteremo l'ennesima, la prossima. Una tabella dice tutto: nell'ultimo mezzo secolo le frane sono state 13 volte di più che nella seconda metà dell'Ottocento. O San Defendente non sa più fare il suo mestiere di patrono, oppure, dato che i meteorologi escludono che siano avvenuti mutamenti epocali, è colpa di come l'Italia è stata gestita. E vi dicevo poi a pagina 11 la cura che manca all'Italia dei disastri: le frane sono 13 volte quelle dell'Ottocento, tra abusi, omissioni e terreni completamente denudati dagli alberi. E tra l'altro vi ricordo che domani dovrebbe iniziare la rimozione di quel vagone del treno che era diretto da Milano verso la Francia e che è ancora lì fermo in vicino ad Andorra, blocca la linea ferroviaria, e tra l'altro è un pericolo per tutti, quindi, e anche quella era stata l'ennesima emergenza dovuta anche in quel caso a piogge particolarmente intense, ma soprattutto a quello che è stato fatto in quei luoghi della Liguria negli anni passati. La prima pagina della Repubblica, invece, il titolo principale, all'altro argomento che vi dicevo, l'assalto alla Boldrini, perché non è stato soltanto, come è capitato molto spesso, un assalto verbale nell'aula, fuori dall'aula, fuori dal Parlamento. Questa volta è stato un assalto sul web, perché Grillo ha lanciato questa simpatica provocazione online: che fareste in auto con lei? Dopodiché, come tutti abbiamo imparato, la rete si sa scatenare, sa offrire il peggio di sé. Sono stata in forse se leggere alcuni dei post o dei commenti via Twitter, e no, ho deciso di non farlo perché sono veramente brutti da leggere, brutti da ripetere, estremamente volgari, e adesso vedremo se arriveranno le scuse. Non credo che ci siano molte speranze di scuse da parte di Grillo, anche che ha però detto, con una specie di, così, di mezza misura, che il problema è stato che appunto la provocazione è stata lanciata di sera, poi di notte nessuno controlla quello che succede sul blog dei 5 Stelle, se vi sembra una giustificazione o una scusa. In ogni caso, poi naturalmente subito sotto la notizia, che è la notizia, ripeto, con cui Repubblica apre, c'è quella delle dimissioni di Mastrapasqua: la resa, due punti, mi dimetto, e poi il racconto di Roberto Mania: la fine del signor Mille Poltrone. Naturalmente anche poi richiami all'Italia sott'acqua, con reportage a pagina 17, perché è dovuto intervenire naturalmente anche l'esercito, e a Roma c'è proprio questo incubo del Tevere, perché potrebbe esondare da un momento all'altro. Veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che apre sulle dimissioni di Mastrapasqua e ricorda la reazione di Letta: scelta saggia. E poi il Sole 24 Ore ricorda anche che adesso adesso naturalmente bisogna pensare a un successore quanto prima. Pensate a quanto è importante un ente come l'INPS, soprattutto in questo momento in cui di pensioni si parla continuamente. Il successore potrebbe essere Tiziano Treu, che in passato ha fatto parte di molti governi, è un esponente del PD, è stato anche ministro del lavoro, vedremo. Ma vi leggo il commento in prima pagina di Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore: la bulimia del potere. Quando nell'Italia del potere inamovibile qualcuno si dimette, viene spontaneo un moto di solidarietà. E tuttavia resta incredibile la vicenda di Antonio Mastrapasqua. Da anni indicato come il recordman delle poltrone in aziende pubbliche e private, il simbolo di una classe burocratica bulimica di incarichi e in costante conflitto di interessi, il presidente dell'INPS ha aspettato che tutto gli franasse intorno prima di fare il dovuto passo indietro. Se avesse lasciato prima i suoi tanti incarichi, forse oggi sarebbe ancora alla guida dell'INPS. Ma Mastrapasqua non ha voluto rinunciare a quasi nulla, neppure a quella direzione dell'ospedale israelitico che alla fine lo ha sprofondato nel fango. Una lezione per tanti alla vigilia del rinnovo dei vertici delle aziende pubbliche. Ecco, questi due argomenti in particolare, lo ricorderete, insomma, il caso è scoppiato non tanto perché non si sapesse quante poltrone occupava Mastrapasqua e quante di queste fossero in palese conflitto di interessi, ma perché è indagato per una vicenda di rimborsi, appunto, all'ospedale israelitico, 42 milioni di euro di rimborsi che non sarebbero stati fatti. Vi segnalo poi dalla prima pagina, anche come ogni domenica sul Sole 24 Ore, richiamata la lettera al risparmiatore, quella rubrica che Vittorio Carlini dedica mettendo sotto i riflettori un titolo quotato per spiegare ai risparmiatori quali sono i punti di forza e i punti di debolezza. Questa settimana si confronta sulla MAR, che è un gruppo attivo nella distribuzione di prodotti alimentari per la ristorazione non domestica, più business con mense hotel, focus su crediti e capitale circolante. Tutte le informazioni a pagina 22. E poi, sempre come ogni domenica, l'intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, che questa settimana si occupa proprio di etica politica, le tre qualità del buon politico. L'intervento inizia appunto in copertina e continua a pagina 18. E poi una intervista che ha solo 24 ore, è fatta da Marco Ludovico al capo della polizia Pansa. Ecco il grande patto per la sicurezza con le imprese. Lotta alla criminalità mafiosa nelle sue infiltrazioni a tutti i livelli, politico, economico e sociale, trova un sostegno sempre più ampio e sempre più forte di un'alleanza estesa: forze dell'ordine, magistratura, associazioni di imprese e società civili. Ora stiamo tutti dalla stessa parte e la qualità del servizio sicurezza è in crescita, dice senza enfasi il prefetto Alessandro Pansa, da 8 mesi direttore generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. È la sua prima intervista a un quotidiano. La prima pagina della Stampa, anche in questo caso il titolo è per Mastrapasqua che se ne va. E poi però subito sotto, raggruppato insomma un po' nello stesso titolo, il richiamo a quello che sta succedendo con i 5 Stelle, in questo caso è soprattutto l'appello di Letta: non bloccate tutto. Sapete che i 5 Stelle stanno facendo ostruzionismo in Parlamento come conseguenza anche di quella che loro hanno contestato moltissimo, l'approvazione del cosiddetto decreto IMU Banca Italia, che ha fatto scattare per la prima volta nella storia dell'Italia Democratica la cosiddetta ghigliottina, cioè Laura Boldrini, e anche per questo è stata contestata, ha impedito la discussione degli emendamenti per permettere che il decreto venisse approvato e che tutti noi non dovessimo pagare l'IMU, così ha spiegato, e anche per questo è stata contestata. Ma la fotonotizia è invece dedicata all'Ucraina, a Kiev. Ne abbiamo parlato tanto e sicuramente continueremo a parlarne. A Kiev sta andando in scena uno scontro tra i manifestanti, ma anche tutte le persone che questi manifestanti rappresentano, che vorrebbero un'Ucraina più vicina all'Unione Europea, un'accelerazione dei negoziati per l'entrata in Unione Europea, e chi invece capeggiato dal presidente, che poi in questo caso si è anche dato malato, che invece vorrebbe un avvicinamento con la Russia di Putin. Vi segnalo anche dalla prima pagina della Stampa un intervento di Emma Bonino, ministro degli esteri, sulla Siria. Anche la Siria, purtroppo, uno dei tanti temi di cui ci occupiamo ogni tanto. C'è stata una conferenza stampa dell'ONU, però l'emergenza continua, e quindi, scrive Emma Bonino, è l'ora di porre fine al massacro. E poi vi segnalo dalla prima pagina la rubrica di Walter Siti, che troveremo anche, scrittore poeta, ritroveremo anche sulla Repubblica con la sua consueta rubrica dedicata a un poeta, e invece in questo caso è una specie di commento che occupa quello spazio che durante la settimana è normalmente del vice direttore della Stampa Massimo Gramellini. Questa volta è dedicata al cavaliere androgino e si riparla di quelle foto pubblicate dal Sunday Times dove Berlusconi, quasi ottantenne, appare senza trucco, con tutti insomma i difetti e i segni dell'età, più che difetti, i segni dell'età. dell'età, che hanno fatto molto parlare, perché sapete quanto normalmente invece Berlusconi è super truccato e sembra sempre più giovane di quello che è. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, abbiamo visto quelle principali, siamo ora a quella del Messaggero, che giustamente titola sull'allerta Tevere, Roma nel caos. Ci sono 5 pagine dedicate a tutto quello che sta succedendo a Roma, e il commento di Paolo Graldi: se resta solo l'arte di arrangiarsi. Si spera appunto che da qui a martedì non aumentino ancora le piogge. C'è anche un'altra foto del Tevere a Ponte Milvio con veramente l'acqua che è proprio sotto, è quasi sotto il ponte, quindi per dare l'idea di quanto sia critica la situazione basterebbe un non nulla appunto per causare dei disagi ancora maggiori di quelli che ci sono stati fino ad ora. Tantissimi naturalmente gli interventi dell'esercito e soprattutto i soliti rimpalli di accusa tra l'attuale amministrazione, quella del sindaco Marino, e quella precedente del sindaco Alemanno. Passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, dimissioni di Mastrapasqua, inizia la guerra delle poltrone, e c'è poi un commento su quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle, ve lo leggo: disgustoso e demenziale, naturalmente è riferito a quello che è stato scritto su Facebook con questo invito di Beppe Grillo a scrivere che cosa fareste in auto se rimaneste soli con Laura Boldrini. Non è una frase scritta sul muro di qualche Vespasiano, ma la domanda postata sulla pagina Facebook di Beppe Grillo è rilanciata sulla pagina ufficiale del Movimento 5 Stelle. Inevitabilmente un quesito del genere ha suscitato vivo interesse nelle fogne della rete, con i risultati che lasciamo immaginare. Solo nel pomeriggio di ieri lo staff del Movimento ha cancellato lo schifo con la giustificazione che quelle frasi sono state postate di notte quando non c'era controllo, ma il danno gravissimo di questo episodio disgustoso e demenziale era ormai irreparabile. L'offesa che ha dovuto subire la Presidente della Camera richiederebbe almeno le pubbliche scuse di Grillo, ma chissà se arriveranno mai. Scuse dovrebbero essere rivolte anche a quei 9 milioni di persone che hanno votato 5 Stelle, non certo per vedere trasformata la loro passione civile nel più volgare turpiloquio. Resta infine misterioso, e questa secondo me è la parte più interessante di questo editoriale, perché davvero è quello che viene da chiedersi a tutte quelle persone, e ovviamente ce ne sono tantissime tra quei 9 milioni di elettori che non sono estremiste, elettori dei 5 Stelle. Resta infine misterioso il perché dell'autolesionismo che alberga ai piani alti del Movimento. I nemici che si sono fatti con tante battaglie giuste non potevano desiderare di meglio. La prima pagina di Libero è dedicata anche a Mastrapasqua, e ve la segnalo in particolare perché è stato uno scoop di Libero 2 giorni fa a rivelare che tra le tante opacità di Mastrapasqua, di Antonio Mastrapasqua e delle sue tante poltrone, questo mistero di come, anche se fosse l'uomo più intelligente della terra, come possa avere così tanti incarichi e convincerci davvero di poterli svolgere al meglio, e c'è tra le tante opacità c'è una condanna per aver comprato degli esami 30 anni fa, quando era iscritto alla Sapienza di Roma. La laurea falsa costringe Mister Mille Poltrone a mollare quella dell'INPS, ma ora occhio al successore. Parlavamo prima del fatto che alcuni già stanno facendo il nome di Tiziano Treu. Non possono essere Treu, scrive Maurizio Belpietro, direttore di Libero, che non vigilò su Affittopoli, o Bonanni, ex segretario della CISL, a gestire le nostre pensioni. La prima pagina del giornale, lo show in Sardegna, Berlusconi alla carica, l'avete sentito anche nei GR, anche ieri sera nei telegiornali. Berlusconi è in piena campagna elettorale per le elezioni regionali della Sardegna. Il Cavaliere, tra le tante cose che ha detto, è quella che una di quelle che ha fatto più che è stata più ripresa: è oggi non rivoterei più Napolitano come capo dello Stato. Comincia quindi la campagna elettorale, siamo pronti a vincere, il nostro obiettivo è quel 37% che sappiamo è quella nuova soglia inserita nella nuova legge elettorale, che permette a chi la raggiunge di avere poi la maggioranza assoluta senza andare al ballottaggio. Partono le grandi manovre, Casini, per Ferdinando Casini, che sapete si era spostato verso il centro di Mario Monti, annuncia di volersi alleare a Forza Italia. La prima pagina del Manifesto è dedicata invece a quello che è successo ieri a Madrid. C'è stata una grandissima manifestazione con donne arrivate in particolare in treno da tutta la Spagna, perché a Madrid si sta discutendo una riforma delle leggi sull'aborto che renderebbe legale sotto questo nuovo governo di centrodestra soltanto se la gravidanza fosse frutto di uno stupro, e addirittura portarla avanti fosse un pericolo per per le donne. Allora la foto, il titolo è semplicemente Madrilene, c'è una ragazza con una croce sulla bocca. Sono arrivate da tutta la Spagna a bordo dei treni della libertà per fermare la legge antiabortista del governo Rajoy. Nella grande manifestazione che ha attraversato ieri Madrid, la rabbia delle donne di fronte al balzo nel passato fatto sulla loro pelle per accontentare la Chiesa e la destra reazionaria. C'è poi quello che in gergo noi chiamiamo palchettone, cioè è comunque un titolo che ha una posizione superiore nella prima pagina di un giornale rispetto a quello principale e che però è scritto in caratteri più piccoli, quindi non è, secondo il quotidiano, la notizia principale, ed è dedicato a Laura Boldrini. C'è una foto della Presidente della Camera, Grillo scatena i suoi online, è un'ordalia contro Boldrini. Una valanga di insulti, ma soprattutto di offese sessiste, fino ad arrivare a veri e propri incitamenti allo stupro. Ci sono anche questi, ve lo assicuro. Vittima la Presidente della Camera Laura Boldrini, colpevole di aver tagliato i tempi della discussione sul decreto IMU Banca d'Italia. Mandante Beppe Grillo da Facebook. Esecutori, gli attivisti del Movimento 5 Stelle che, aizzati dal capo, si scatenano in rete. E poi il caso INPS con un corsivo firmato Dedalo, l'addio tardivo di Mastrapasqua. L'Unità, anche in questo caso la stessa apertura del manifesto, o meglio la stessa fotonotizia, che è quella della manifestazione a Madrid. A Madrid tutto contro Rajoy, ma in realtà, mi correggo, la vera apertura è sulla vicenda Boldrini, grillini che odiano le donne, un titolo che naturalmente ricalca un po' uno dei titoli di uno dei libri più famosi, no, degli ultimi anni, Uomini che odiano le donne, la trilogia scandinava. Il comico scatena la rete contro Boldrini, cosa faresti in auto con lei, e il presidente qui c'è un richiamo all'Unità, mette subito un richiamo alla reazione di Grasso, il presidente del Senato, che dice offese volgari e sessiste. La prima pagina dell'Avvenire ha una fotonotizia della piena del Tevere, simile è una foto scattata vicino a Castel Sant'Angelo, anche qui vediamo quest'acqua che soffoca i ponti, e poi Mastrapasqua lascia, Grillo raddoppia, attacchi e volgarità. Vi segnalo anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ieri sera c'è stato Torino-Milan, sapete, un pari, ma oggi invece, stasera ci sarà il posticipo Juve-Inter, le due squadre sono lontanissime, ci sono 23 punti tra la capolista e l'Inter, però insomma una partita che è sicuramente molto interessante per tutti gli juventini, forse ancora di più per i poveri interisti. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX, perché il titolo è sul Mastrapasqua, ma poi c'è una fotonotizia che, tra l'altro, è la stessa che pubblica anche il Giorno, è una notizia che non ho trovato altrove, è un'eruzione di un vulcano a Sumatra, quindi la natura insomma si scatena un po' ovunque nel pianeta, facciamo fatica a tener conto di tutti questi eccessi della natura, però ne prendono nota, ce lo ricordano appunto il Secolo XIX, c'è una donna che scappa con questa grande nuvola di fumo e di detriti che incombe dietro di lei, travolta una comitiva di studenti, ci sarebbero almeno 14 vittime, si sveglia dopo 400 anni il vulcano di Sumatra, tonnellate di cenere incandescente, tra le vittime appunto anche questi studenti che erano in gita scolastica. Andiamo un po' alle pagine interne prima di passare ai supplementi culturali. Dal Corriere della Sera vi segnalo due grandi interviste, una a pagina 5 di Alan Friedman a Berlusconi, e il titolo dell'intervista è: si andrà alle urne tra oltre un anno, il mio piano folle per superare il 37%, quindi con una di queste sue così boutade Berlusconi ammette che insomma arrivare, tornare al 37% è un traguardo molto addirittura folle, lo definisce, però lui è convinto. Su Renzi dice Berlusconi ha annunciato con coraggio, un filo di arroganza, di voler rottamare tutti i vecchi campioni del partito, e l'ha fatto, spero che continui in questa direzione. Invece a pagina 7 del Corriere della Sera un'altra intervista a tutta pagina, questa volta di Aldo Cazzullo a Romano Prodi, che viene un po' invitato a commentare su tutto quello che sta succedendo in questi giorni in Italia. La scossa di Prodi al Premier: non abbia paura, ora tenti una sortita, non voglio andare al Quirinale, segniamocelo, se magari poi qualcuno lo candidasse di nuovo come Presidente della Repubblica dopo Napolitano, il paese è cambiato, non sono un uomo 2.0. Passiamo alle pagine interne della Repubblica, una in particolare l'avete sentito anche, ne parlava Marta Cagnola nel suo intervento prima subito dopo il GR, è la sera del Super Bowl, che è la finale del campionato di football. Gli americani la considerano la finale mondiale, perché il football è sicuramente in America il vero campionato di football. Il governatore, il sindaco e il Super Bowl della politica che divide New York. L'articolo è di Vittorio Zucconi. Ci saranno 113 milioni di persone davanti alla televisione, ed è per questo che questi spot mandati durante il Super Bowl sono in generale fatti apposta per il Super Bowl, sono carissimi, ma perché appunto ci sono 113 milioni di persone a guardarli, a meno che non facciano subito zapping. Un'altra notizia interessante dalla Repubblica, richiamata in prima pagina, un approfondimento di Michele Bocci, perché c'è un esperimento che sta per partire in 4 regioni. Non si sarà mai più soli in sala d'attesa al pronto soccorso, ci saranno hoster e steward. Chiunque abbia fatto appunto lunghe code d'attesa o per se stesso o per familiari in pronto soccorso sa quanto possa essere angosciante essere lì senza sapere o cosa sta succedendo alle persone che si sono accompagnate in pronto soccorso o cosa succederà a noi, e questo servizio sperimentale potrebbe essere veramente un salto di qualità nell'assistenza sanitaria pubblica. In primo piano. Rieccoci per l'ultima parte della rassegna stampa. Vi segnalo dal Sole 24 Ore, perché d'accordo, la notizia è che Mastrapasqua si è dimesso, ma è molto interessante, trovate tutto a pagina 3 del Sole 24 Ore, capire che IMSS lascia Mastrapasqua, che cosa ha fatto e che cosa c'è da fare. Allora, due le analisi, una di Davide Colombo: in eredità lascia un piano industriale da completare, era 5 anni che Mastrapasqua era all'IMSS, e poi un'analisi di Fabio Pavesi sui conti immobiliari dell'IMSS, quel mattone in perdita per 380 milioni. In deficit il patrimonio immobiliare dell'ente, case, uffici, negozi di proprietà valgono oltre 3 miliardi ma apportano solo perdite ai bilanci dell'istituto. Questo appunto per capire, oltre al giochino del mister mille poltrone, che cosa veramente ha fatto di buono e non di buono l'ex, ormai ex presidente dell'INPS. Un approfondimento a pagina 15 di Antonella Scott, la nostra collega che è partita per la Russia, per le Olimpiadi che iniziano il 7 di febbraio. Giochi d'azzardo a Sochi, questo è il titolo del suo primo reportage, la grande vetrina dello zar Putin tra sfarzi, rischio terrorismo e voglia di rilancio. Di Mar, la lettera all'investitore di Vittorio Carlini, vi avevo parlato. Dalla Stampa invece vi segnalo una pagina intera sull'Iran, sotto il velo la Teheran Rivelle. Francesca Rigatti ci racconta questo doppio volto della capitale, castigata in pubblico, eversiva dietro le mura di casa. E poi un'intervista a Giulia Bongiorno, che sapete è l'avvocato di Raffaele Sollecito, appena condannato a 25 anni dalla Corte d'Assise Appello per la morte di Meredith Kercher, che viene titolata questa intervista, fatta da Guido Ruotolo: rispetto tutte le sentenze, ma quel giudice doveva tacere. Sapete che in teoria prima che un giudice commenti una sentenza bisogna aspettare che vengano depositate le motivazioni di quella sentenza. Questo giudice non l'ha fatto e si è attirato moltissime critiche. Ma veniamo finalmente alle pagine culturali della domenica, cominciando naturalmente dal domenicale, cominciando come sempre faccio dal breviario di Gianfranco Ravasi. Oggi si intitola Bambini ed inizia con una frase, una citazione di Antoine de Saint-Exupéry: tutti grandi sono stati bambini un tempo, ma pochi di essi se ne ricordano. Quando sfilano in televisione certi volti di criminali, autori di stragi o segnati da perversioni innominabili, spontaneamente ci viene di contrapporre in dissolvenza un'altra immagine in filigrana. Anzi, talora proprio i giornali o i video propongono foto di costoro da bambini, col visino pulito, forse con l'abitino della prima comunione, oppure seduti sulla spiaggia con la paletta in mano, sotto il sorriso compiaciuto della mamma. Queste faccine però svaniscono, come si scioglie la tenerezza e la purezza di cuore di cui sono intrise, per lasciare spazio al crudo profilo del presente. Per anni costoro, pietra dopo pietra, hanno demolito quella dolce costruzione interiore, hanno cancellato sentimento e ragione, coscienza e morale. È proprio questa pericolosa smemoratezza che Antoine de Saint-Exupéry rievoca in quella favola per bambini che è Il Piccolo Principe, in verità parabola destinata a noi adulti sulla nostra innocenza perduta. E poi, sempre dalla prima pagina della domenica del Sole 24 Ore, la rubrica del nostro direttore Roberto Napoletano, oggi è dedicata a Reggio Calabria, una lettera che gli ha scritto un lettore di Reggio Calabria e che invita, che si augura, che spera e che invita probabilmente anche il direttore napoletano a rilanciare questa speranza, che a Reggio Calabria non venga commissariata anche appunto la speranza. E c'è un brano della lettera e poi il direttore commenta: l'autore di questa lettera è un lettore della domenica, ma prima ancora è un amico. Lui e Peppe Casile sono i principali animatori del Regium Iuli, uno dei più antichi premi di saggistica, narrativa e molto altro della Calabria, dimostrazione evidente che si può fare seriamente cultura anche in una terra così martoriata. storiata. E come sempre, insomma, il direttore ci propone degli spunti, a volte anche tristi, angoscianti, ma per cercare di vedere quante persone ancora in Italia, sconosciute spesso, cercano di fare qualche cosa per la cultura del nostro paese, per il nostro paese in generale. Un approfondimento a pagina 30 del Domenicale su Facebook, perché Facebook ha compiuto 10 anni. È troppo facile dire amici, questo è il titolo dell'articolo di Luca Pani. Pensate che Facebook abbia arricchito il circolo delle vostre conoscenze? Sono vere amicizie? La socialità obbedisce a regole e numeri ben precisi. E poi nell'inserto che è la Domenica da collezione, un inedito di Hermann Hesse, un curioso testo del 1945 in cui lo scrittore tedesco racconta la vita quotidiana di un uomo di lettere e la paradossale richiesta che gli giunge da una famiglia italiana. Questo è proprio è come leggere un breve racconto. Caro Hesse, ci scriva un romanzo, così volevano questi italiani che forse erano stufi di leggere solo saggi di Hesse. E poi un approfondimento sulla mostra che si apre alla Galleria Borghese, la trovate anche sul Messaggero naturalmente, dedicata a Giacometti, Alberto Giacometti, questo scrittore, questo scultore svizzero, sapete, quello famoso per queste figure estremamente sottili. Lì Giacometti davanti a Bernini, la galleria ospita per la prima volta la scultura del maestro svizzero. 40 opere, bronzi, gessi e disegni sparsi nelle sale che dialogano con le statue romane, barocche e neoclassiche. Pensate che spettacolo. Passiamo alla lettura, il supplemento del Corriere della Sera. Qui c'è un interessante articolo di Evgeny Morozov: Internet senza freni mina la democrazia. Si fa appunto, abbiamo parlato di Facebook, ma si parla tanto anche di Twitter, anche con quello che è successo, l'episodio Boldrini. Insomma, uno sguardo critico su questo strumento incredibile, su tutti i social network. L'accumulo di dati pone un problema etico, scrive Morozov. La soluzione è rivedere i modelli di sviluppo. E poi vi segnalo, sapete che mi piace molto questa rubrica, la pagina dedicata alla visualizzazione dei dati. Oggi c'è questa infografica che ci fa capire cosa sono le cose che cerchiamo di più noi italiani su Wikipedia: Papa, calcio, TV e marziani. E poi vi segnalo un articolo di Franco Cordelli su un libro scritto da uno scrittore del Burundi, e il titolo è Il Burundi è più crudele del suo romanzo. Roland Ruggero, che è nato nel 1986, quindi uno scrittore veramente giovane, racconta la violenza che intossica la sua terra, toccata, ricorderete, da quei massacri impressionanti che avvenirono nel 1994 e sconvolsero il confinante Ruanda. Però nel libro c'è una specie di lieto fine, quindi la speranza che viene dalla letteratura. E poi vi segnalo a pagina 22-23 un bellissimo racconto di Corrado Staiano della figura di Paolo Volponi, Il capitale umano di Volponi, il letterato con la cultura dell'artigiano aperto al mondo dolcemente nevrotico. È quella che Corrado Staiano chiama una lezione ancora valida. È stato un uomo integro del Novecento, i suoi libri spesso dimenticati dovrebbero essere dei breviari per comprendere il nostro incerto presente, quindi uno dei tanti maestri dimenticati che l'Italia ha avuto nell'ultimo secolo. La Domenica di Repubblica invece ha una copertina dedicata a Hayao Miyazaki, che è il grandissimo regista di animazione giapponese, con questa intervista: e fino a quando avrò un pastello sull'erba soffierà il vento. E quindi il racconto di come Miyazaki vuole continuare a farci sognare. Sapete che i suoi cartoni animati sono sì forse idealmente fatti per i bambini, ma poi sono piacevolissimi da vedere anche se si è adulti. E vi segnalavo la rubrica di Walter City, la poesia del mondo, quello di oggi. Walter City si dedica a Osip Mandelstam, il poeta, è stato un poeta russo, ma è vissuto tra il 1891 e il 38. Nel 1934 venne arrestato per aver scritto versi contro Stalin e morì in un gulag sovietico, e ce lo riracconta Walter City. E, insomma, è sempre bello parlare di poesia, ma vi raccomando come sempre di leggere tanto oggi che forse si ha un pochino più di tempo. Vi auguro una buona domenica, una buona settimana da Giulia Crivelli.